Buonasera e benvenuti alla rassegna eventi della settimana, che va dal oggi che è lunedì 19 marzo alla domenica, mi sa che è il 25. Domenica 25. Siamo il 25, sì. Poi boh. Ci correggeremo dopo se abbiamo sbagliato. Allora, martedì 20, dalle ore 18 in polveriera, ci sarà la presentazione di un libro intitolato La prossima rivoluzione, dalle assemblee popolari alla democrazia diretta, di Mare Bookchin, con la curatrice Debbie Bookchin e il traduttore Martino Seniga, a cura dell'Ateneo Libertario Fiorentino. Sì, l'Ateneo Libertario. Mercoledì 21, presso la Facoltà di Lettere in Piazza Brunelleschi, invece dalle ore 16 vi sarà il dibattito Il lungo 68 degli studenti medi a Firenze. Tutto questo organizzato dal Collettivo Universitario Autonomo di Firenze e basta. Mercoledì 21 sempre, se riesci ad andare un attimo giù col tuo scroll. Bene. Terza cena sociale di finanziamento, cultura e convivialità dell'Ateneo Libertario. I prodotti arriveranno di questa cena arriveranno direttamente da Genuino Clandestino, dalla rete locale di Genuino Clandestino, e sono richieste le prenotazioni alla mail dell'Ateneo Libertario. Bene, molto bene, molto bene. C'è anche tutto il menù, guardate. C'è anche il menù, voglia, sì, buonissimo. Dovete prenotare, attenzione. Sì, sì, sì. Mentre giovedì 22 alle ore 18, presso la polveriera, La guerra dei meme, presentazione con l'autore Alessandro Lolli, cena benefit per le spese legali della Crefa sgomberata a gennaio, segue concerto degli Addio Proust. Oppure Addio Proust. Addio Proust. Andiamo poi a giovedì. Prego. Giovedì, la sera di giovedì, dalle 21.30, la proiezione classica presso l'occupazione Via Leone, Il Profeta, con popcorn artigianale. Venerdì 23, mercato contadino in Piazza Tasso, organizzato da Mondeggi Bene Comune. Finalmente il mercato, a grande richiesta, è tornato dallo scorso venerdì in Piazza Tasso e così andrà avanti per, speriamo, per sempre. Il 23, sempre venerdì, dalle ore 15 alle 18.30, la scuola contadina di Mondeggi Bene Comune spiega, penso, la micologia. La micologia, lezione sulla micologia. I funghi, quindi, praticamente. Sì, esattamente. Ottimo. Organizzato dal Collettivo di Agraria, sì, e via discorrendo, trovate tutto il programma completo sul sito di Mondeggi. Venerdì 23, alle ore 19, invece, c'è la presentazione Ma chi ti ha detto che non c'è? Con Manfredi. Organizzato dalla Libreria Majakowski e CPA Firenze Sud. Il venerdì sera, poi, venerdì caldissimo, alle ore 23, festa universitaria a Novoli, attenzione, in Miruzza Sound System contro, versus, insieme a Romola Sound System, che conosciamo bene entrambi. Passiamo a sabato 24, dalle ore 17, presso Piazza Puccini, vi sarà il corteo in difesa degli spazi occupati. Il corteo, se volete informazioni maggiori, trovate un evento su Facebook, oppure potete ascoltarvi la puntata di Fuoco alle Polveri. Andiamo avanti con il sabato 24. La sera all'Emerson, Next Emerson, a cura di Smash Sound Collective. Un po' di punk, Moral Hangover, ma giù poi. Questi qui sono della Cecoslovacchia, da Brno. Crisis Benoit, li chiamerò così, da Bologna. E Trauma 84, sempre da Brno. Hanno fatto una caravana, sì, da Brno. Sempre da Brno, sono arrivati con un camion. Ci sta. Sabato 24, sempre dalle ore 19 alle 22.30, la proiezione dei cortometraggi Narrazione di Resistenza. Questo potrebbe essere la polveriera Spazio Comune, ma forse no, tenetevi aggiornati. Proiezione dei cortometraggi Narrazione di Resistenza contro l'oblio, mamme dei giovani desaparecidos e giustiziati dall'esercito colombiano. E dopo la proiezione presenteremo il progetto editoriale di Entrelazzando e il loro percorso con le mamme delle vittime di Stato. Dovremmo avere prossimamente anche presso Fuoco alle Polveri e su Radio Wombat degli interventi e delle interviste riguardo questo argomento con dei compagni che direttamente ci hanno parlato di questa roba dalla Colombia. Domenica poi 25, giornata lunga in polveriera. C'è un evento importante che è intitolato Da Rifredi ad Afrin. C'è un diversi compagni di città si stanno impegnando per portare aiuto concreto e informazione concreta sulla situazione in Siria. Quindi dalle 17 alle 22.30, una lunga giornata. Prima Mimi e Kawa DJ, Afrofunk, Boogie Hip Hop ai piatti, e una merenda benefit per il coordinamento toscano per il Kurdistan. Dibattiti e collegamento e con interventi testimoni del conflitto ad Afrin e Rojava. E la sera dalle 20, Ninjaz della Numa Crew, uno showcase, e Antifa Flow MC. Benissimo, per finire, domenica 25 marzo dalle ore 15 alle ore 20, Milonga di Sangue Sognato presso il CSA Next Emerson. Tutti questi eventi, soprattutto quelli in polveriera, seguite perché ci potrebbero essere novità. Detto questo, ci sentiamo la settimana prossima per la rassegna eventi della settimana. Ciao cari. One butt.